Tutti convocati Magazine di Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanini in redazione, Roberto Scaltritti in regia, giusto per darvi fastidio, sportivamente parlando, si intende anche il sabato, oltre che dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15, nasce questo nuovo appuntamento del magazine di Tutti Convocati, in cui la nostra intenzione è quella di riproporvi il meglio e il peggio della settimana sportiva, magari sorridendoci un po' sopra. Oggi ho convocato quanto mai opportunamente Marco Belinazzo dalla redazione del Sole 24 Ore, che ben conoscete. Ciao Marco. Ciao Carlo e buon pomeriggio. Convocazione tutt'altro che casuale. Intanto vi ricordo che da questo weekend nasce il nuovo palinsesto sportivo di Radio 24, quindi mi raccomando di non perdervi domani dalle 16.30 alle 19 la prima puntata di Dai e Vai, poi anche dalle 22 alle 23 con un programma e una conduzione tutta nuova di cui poi vi parlerò. Però ho convocato Marco Belinazzo perché partiamo dal peggio. Basta che Marchisio su un giornale molto patinato dica che quando gioca contro il Napoli, insomma, si sente carico. Allora Marco Belinazzo, napoletano di nascita e di estrazione calcistica, beccati questa. Quanto senti patico, quanto sei antipatico, eppure non so perché, non posso pensare ad altro che a te. Allora, basta una domanda che è questa su Style del Corriere della Sera. Domanda: ci sarà qualche giocatore che al solo trovartelo davanti le suscita una vena di antipatia sana, una sana vena di antipatia? Risposta di Marchisio: non qualche faccia in particolare, ma una squadra, soprattutto dopo le finali ruvide di Coppa Italia e Supercoppa. Il Napoli, quando me li trovo di fronte, scatta qualcosa. Già vi dico che in questo magazine è prevista la presenza dei... Sapete che al lunedì facciamo i tre migliori, il podio delle migliori dichiarazioni domenicali dei protagonisti del mondo del pallone. Ebbene, nel magazine faremo il podio delle vostre dichiarazioni, cioè di quelle degli ascoltatori. Allora, Marco Belinazzo, sei offeso? Assolutamente no, ti sorprenderà, ma ho trovato inopportuno il comunicato del Napoli di reazione a una dichiarazione del tutto legittima di un giocatore che evidentemente, quando vede l'azzurro e non il rosso, ha una motivazione in più, ma fa parte di una sana rivalità, credo che sia corrisposto come sentimento dai giocatori napoletani quando incrociano quelli bianconeri. Ma poi voglio dire, è anche una dichiarazione, un attestato di stima, nel senso di Napoli è una squadra che fa paura, no? Napoli è una squadra che mi porta a tirar fuori tutto l'agonismo che ho. Il Napoli è un avversario serio. Beh, spero che nei prossimi anni ancora di più questa rivalità sia accesa e soprattutto sia fondata su elementi di fatto, no? Aspetta, che ti vendono Cavani, aspetta che poi ne parliamo, aspetta che Raiola ha detto che quei soldi arriveranno. Questo è un timore che ho, per la poi verità. Ce ne parlerai tu comunque anche nei dettagli, anche in maniera tecnica, di un mercato per molti versi incomprensibile. Però ti faccio sentire invece cosa hanno detto gli ascoltatori, qual è stata la reazione degli ascoltatori a queste dichiarazioni di Marchisio. Abbiamo il podio, lo vuoi sentire? Assolutamente. Allora, terzo gradino, Gaetano da Napoli. Io sono un napoletano che ha vissuto a Milano e a Torino nelle assicurazioni, sono anti-juventino, ma sì. Marchisio ha detto quello che lui pensa, è sportivo, è molto più chiaro. Marchisio che non Conte quando inizia la partita declama la preghiera: dacci il nostro gol quotidiano, dacci il nostro rigore, annulla un bel gol alla società rivale, non dagli magari qualche rigore a loro. La recita sempre la poesia Conte. Recita la poesia, però... Sì, c'è sostanza, però però tutte le domeniche ha detto il lui suo, però intanto non si accorge di quello che succede dentro il suo spogliatoio, dice sono proprio un coglione, non mi sono accorto che vendevano le partite, ma se l'avessi saputo, dice sempre Conti in questi ma quello è ingenuo, caro, molto ingenuo, è ingenuo sì, e Conte è ingenuo. C'hanno la cattiveria negli occhi, non lo vedi quando lui canta i giocatori? È ingenuo. È ingenuo all'incontro. Ho capito. Come no? Vabbè, comunque. Però è così. La Juve è così. Io sono anti-juventino per principio. Questa ti è piaciuta? Anti-juventino per principio. Anti-juventino per principio. Il Conte è ingenuo. Beh, questo c'era molto dello spirito ironico napoletano, chiaramente. Beh, chiaro. Chiaramente, pensa che l'ho capito perfino io. No, beh, insomma, mi sarei aspettato molto di più, mi sarei aspettato un aggettivo molto diverso, però... Però ecco, c'è in questa anti-juventinità dei napoletani qualcosa di molto radicato. Che è come l'anti-napoletanità di... Ma finché si tratta... Anzi meno, credo, dell'anti-napoletanità finché, di finché si resta davvero su un piano di rivalità, credo che sia faccia soltanto bene poi al calcio italiano, insomma. Ma poi almeno c'è un giocatore che dice una cosa... Appunto, guarda, leggere o ascoltare. No, l'unica è sentire Mino Raiola e qualche volta Berlusconi quando è in vena. Secondo gradino del podio, Gennaro, avrà qualcosa da dire anche lui? Sì, allora, non sono d'accordo, buongiorno. Buongiorno. Allora, lo stato di guerra sono quelli che dicono queste dichiarazioni fomentano la violenza. Allora, io sono napoletano, tifoso di Napoli, le volevo dire due cose. Uno, stasera a Napoli ci sta il derby di pallanuoto, è uno sport che fanno praticano i miei figli ed è bellissimo ed è gratis. Detto questo, le dichiarazioni di Marchisi, io non sono affatto offeso, perché anzi lo trovo bello che uno dichiara la rivalità sportiva e non ma mi sembra spiego. Questo non mi sembra mi nulla sembra animale. Mi sembra soltanto questo, no? Le spiego, io sono tifosissimo del Napoli, ma se dovessi trovare una macchina dei tifosi della Juve che bucano una ruota, io mi fermo e li aiuto sul campo, sono altro. Miei nemici, non altro. Trovo nulla di offensivo. Ma lo ci stato mancherebbe di guerra altro. Sono stupidi chi prendono le frasi, anzi a me è bello sapere che vi lascio uno che voglio dire giustamente, dice io quando vedo il Napoli è anche motivo d'orgoglio per me, ma quindi non mi sento offeso. Questo la pensa come te, ma tu se vedi uno con la sciarpa della Juventus che ha bucato, lo aiuti? Io ho tremato quando ha iniziato a fare questo esempio, perché immaginavo, come dire, un investimento preordinato. Però ecco, mi fa piacere che ci sia questo sentimento di rivalità sul campo, ma di civiltà fuori, insomma. Sì. Siamo un po' banali dicendo queste cose, no? No, ma per niente. Credo che sia anche lo spirito, insomma, che le società devono costruire. Ma poi è anche, Marco, qualcosa di storico, no? Tu hai scritto anche un libro sulla tua storia personale insieme al Napoli, cioè sull'essere cresciuto con il Napoli. E vabbè, ovviamente quel gol di Maradona su punizione, quello se credo se che lo ricorda, sia indimenticabile per tutti i tifosi napoletani. Nell'area di rigore riuscire ad alzare quel pallone è stato qualcosa di meraviglioso, e poi la vittoria a Torino l'anno dopo nella cavalcata dello scudetto, no? Quindi in qualche modo le storie di Napoli e Juventus sono talmente intrecciate, talmente profonde, che non possono che suscitare questi sentimenti così forti nei tifosi ma anche nei giocatori, come Marchisio ha testimoniato. Sì, come Marchisio ha testimoniato, non si è limitato a fare e non ha fatto nient'altro peraltro, non in modo da giustificare. Poi mi fanno impazzire quelli che dicono queste dichiarazioni fomentano la violenza. Secondo me fomentano la violenza le dichiarazioni di chi dice o scrive queste cose invece. Ci fermiamo per il traffico, ma subito dopo torniamo e abbiamo ancora un ascoltatore, quindi il primo gradino del podio da farvi sentire. Poi parleremo di mercato, Marco Bellinazzo ci spiegherà perché il Milan non compra Balotelli, perché non arriveranno grandi giocatori, perché il fair play finanziario è una pagliacciata, così come è una pagliacciata il pallone d'oro che io presto mi aspetto griffato magari con un puma che salta o con tre striscette o con lo swash ben noto. Vabbè, traffico. Antipatico. Darry. Ma sei simpatico a tutti. Prima puntata del magazine del sabato di tutti i convocati. Marco Bellinazzo, napoletano di nascita e di fede calcistica, oltre che esimio giornalista del Sole 24 Ore, qui con me. Allora, ti faccio sentire un ascoltatore che invece non la pensa tanto come noi. Senti questo. Giancarlo, Napoli. Salve, sono Giancarlo, salve. Buongiorno. Volevo semplicemente ricordare a tutti coloro che ascoltano questa mia telefonata che ciò che sta facendo Radio 24 Ore a proposito dell'offesa verso il Napoli non farà altro che creare delle provocazioni autorizzate e premeditate quando verrà la Juve a Napoli. Quindi vi prego, siccome l'Italia è una, il popolo italiano è uno solo, cerchiamo di essere uniti e si vergogni quel signore che ha offeso la città di Napoli, non solo la squadra, ma ha offeso anche la città di Napoli. Allora Marco, peggio le dichiarazioni di Marchisio queste? Beh, era un po' acceso questo tipo di ovviamente, insomma non mi meraviglia conoscendo quanto alcuni napoletani siano molto sanguigni. Sicuramente la partita, credo sia il 14 marzo, si giocherà di venerdì sera Napoli-Juventus, insomma, sì. Sarà accesa ed attesa, ma mi auguro non per questi motivi, insomma, ma perché magari il Napoli è riuscito a rosicchiare qualche altro punto alla Juventus, magari uno gli è stato restituito dalla giustizia sportiva, uh-huh. E quindi magari quella partita sarà decisiva e attesa per profili sportivi, ecco, non per profili di antipatia personale. Come anche se a dirla tutta, cioè io mi sarei aspettato magari da parte di Marchisio un'antipatia più verso colori, come dire, nero-azzurri o rossoneri. Mi ha sorpreso, ma mi ha quasi lusingato, come ricordavamo all'inizio, insomma, che abbia individuato nel Napoli la squadra per la quale il suo animo si accende quando scende in campo. Senti, il grillo parlante del calcio, in particolare del mercato, e cioè Mino Raiola, ha detto che tranquilli perché arriverà qualcuno con i soldi nella valigetta richiesti da De Laurentiis per Cavani. Non mi meraviglia che lo abbia detto, e sinceramente, visto come Cavani sta giocando e quanto sta segnando, non mi meraviglierebbe appunto vedere qualcuno arrivare a Napoli con tanti soldi, i 63 milioni della clausola rescissoria o poco meno, poco più, vedremo se Cavani manterrà questo trend di rendimento. E a quel punto, insomma, De Laurentiis potrà fare poco, dipenderà dalla volontà del giocatore. E potrà fare molto con quei soldi. Potrebbe viceversa fare molto con quei soldi e far partire una rivoluzione la squadra che ne ha bisogno, nel senso che deve ringiovanirsi, perché a differenza e al contrario di quello che si pensa e che Mazzarri continua a dire, che è una squadra che deve crescere, che è una squadra giovane, in realtà insomma l'età media del Napoli è tra le più alte in Serie A, penso soltanto il Chievo e l'Inter hanno un'età media maggiore, e quei giocatori che erano giovani 4-5 anni fa, come Hamsik per esempio, cominciano ad avere un'età per cui devono vincere. E per Cavani sarebbe una grande opportunità andare all'estero, il padre ha detto che il Real Madrid sarebbe la squadra ideale, quindi sto notando degli scricchioli nella, invece, quella che dovrebbe essere una ferrea volontà di mantenere il Matador a Napoli per continuare in questo processo di sviluppo di quello che sia il fatturato del club, sia sì, ma sai chi è molto giovane? Balotelli. E infatti ciò che è stato detto da Mazzarri qualche giorno fa a proposito di Balotelli mi ha fatto suonare ancora di più un campanello di allarme da tifoso rispetto all'eventualità che si profili a giugno, come dire, uno scambio con l'auto conguaglio ovviamente a favore del Napoli tra i due attaccanti evocati appunto in questa faccenda, cioè Balotelli e Cavani. Cavani magari verso il City, Balotelli che arriva a Napoli, il Napoli che si porta a casa 30-40 milioni e che con questi soldi magari prova a creare una squadra che possa finalmente vincere in Italia. Per l'Europa, insomma, penso sia molto complicato. Io voglio invece farmi spiegare da te, che capisci di economia, una dichiarazione di De Laurentiis che ha spiegato perché Cavani è difficile da vendere in questo momento. Io l'ho ascoltata anche più volte, ho cercato anche spiegazioni sulle guide del Sole 24 Ore, ma non ho capito nulla. Ti faccio sentire De Laurentiis, poi mi dici cosa ne pensi. Che bisogna capire anche come giocherà il mondo occidentale la sua partita in questa ripresa dalla recessione, quindi bisogna capire se l'America riuscirà a essere il tirante di tutta l'economia occidentale, se invece io nell'Europa non ci credo, non ci ho mai creduto, perché finché l'Inghilterra rimarrà fuori dal treno europeo e finché noi populisticamente ci accolleremo anche tutti gli stati minori, io credo che non ci possa essere una grande competizione con gli Stati Uniti. Io qua mi arrendo. Beh, credo che stesse presentando, diciamo, la piattaforma elettorale a livello europeo, De Laurentiis in questo caso. No, l'ermeneutica delle dichiarazioni De Laurentiis, diciamo, in questo caso sfugge anche a me. Poi dipende da come gli è stata posta la domanda e di quello che era poi effettivamente il contenuto del quesito a cui ha dato così ampia risposta, facendo riferimento evidentemente a questioni geopolitiche che credo non abbiano a che fare con la fine di Cavani, insomma, sì, con quella che sarà il destino del Maradona, che naturalmente i napoletani vorrebbero a Napoli, che devo dire non sarebbe male vedere giocare almeno qualche partita in coppia con Balotelli, insomma. Ascolta, spiegaci invece questo mercato con le pezze al sedere. Ancora ieri Galliani ha detto: noi non prenderemo nulla a meno che non costi niente, ma Drogba ve lo sognate, tifosi del Milan, della Juventus e di tutti gli altri. Non mi aspetto grandi colpi e quindi nulla. L'Inter sta prende Rocchi, 35 anni, per fare il vice Milito, e il grande calcio è in mano ad altri. Beh, è evidente, lo abbiamo raccontato spesso. Partiamo dalla vera causa di tutto, cioè la mancanza di soldi, quindi non da fair play finanziario, non fair play finanziario, ma mancanza di mancano grano, i soldi, non ci sono più i lauti dividendi che arrivavano per esempio a Moratti dalle casse della Saras o a Berlusconi dalle casse dell'impero Fininvest, e quindi si deve fare di necessità virtù. In più, il secondo elemento, appunto lo metto come secondo, c'è il fair play finanziario, e quindi il prossimo anno si dovranno fare i conti con i bilanci chiusi nel 2012 e nel 2013 alla luce dei parametri del fair play, sì, finanziario. Intanto a Parigi hanno fatto lo sgamo. Beh, questo lo possiamo raccontare tra un attimo, se vuoi, perché merita un attimo un approfondimento. Sì. Per chiudere il discorso sulle italiane, è chiaro che se l'Inter parte da meno 80 nel 2012, se il Milan parte da meno 70, se la Juve parte da meno 50 nel 2012, è evidente che non si può fare molto sul mercato e che non conviene a queste squadre, perché hanno fatto una politica la scorsa estate, quella di tagliare gli ingaggi, per portare questo rosso verso il basso, non verso il pareggio di bilancio perché non ci arriveranno, ma molto vicino, e questo consentirà formalmente di poter partecipare alla Champions League, perché saranno in linea con i parametri del fair play finanziario, almeno Milan e Juve, l'Inter forse rischia una multa o comunque una sanzione di tipo pecuniario, ma non l'esclusione, proprio perché da 70 dimostrerà la propria buona fede e ridurrà verso 30, 40, insomma, milioni il proprio passivo l'anno prossimo. Tutto questo però si traduce nel fatto che grandi acquisti non se ne possono fare, ed ecco spiegato Rocchi, ecco perché il Milan e l'Inter potranno acquistare solo grazie ai soldi che hanno recuperato, il Milan dalla cessione di Pato e l'Inter dalla cessione imminente di Sneijder. Vediamo poi quanto effettivamente Infatti il Milan ha detto prendiamo Saponara 4 milioni, però aspettiamo che arrivi l'anticipo per Pato, che è stato venduto mi sembra per 15, aspettiamo che arrivi la prima rata, poi paghiamo. E infatti Pato garantirà non solo le somme che arriveranno di cash dal Brasile, ma anche un risparmio di circa 10 milioni di fatto sul tetto ingaggio, anche se solo metà stagione. E con quei soldi Galliani farà mercato. In passato Galliani ha fatto sempre i miracoli, mi sa che questa volta insomma sarà molto, molto complicato farlo. Invece che il City partecipi alla prossima Champions League è tutto sommato irrilevante dati i risultati degli azzurri. Il Paris Saint-Germain invece Paris Saint-Germain invece sì. E qui torniamo sul possibile scamotage di cui si è parlato moltissimo nelle scorse settimane, cioè un super contratto fatto dal Paris Saint-Germain con l'ente del turismo del Qatar, ovviamente collegato alla proprietà qatariota, un super contratto che dovrebbe garantire per i prossimi anni al Paris Saint-Germain entrate dai 150 milioni ai 200 milioni all'anno. Questo per mettere di fatto i francesi in linea con il fair play finanziario, perché i francesi catarioti non ci credono al fair play finanziario, ma in qualche modo cercano di porre dei paletti, perché non si sa mai che a Platini venisse l'idea invece di rispettare quello che finora ha detto e quindi di buttar fuori chi quei paletti non li rispetta. Gabbato l'usante. Però alla UEFA, se c'è chi, come dire, non disprezza i soldi che arrivano dal Qatar, c'è anche chi sta giocando una carriera, a partire proprio da Platini, sul rispetto di questi parametri. E allora, per capire quanto questa sponsorizzazione è al di là di ogni immaginazione, dobbiamo ricordare due dati. Il fatturato completo del Paris Saint-Germain nel 2011, quindi prima che arrivassero i soldi dello Sheikh Mansour, era di 100 milioni, quindi 20 milioni arrivavano dagli sponsor. E soprattutto questa sponsorizzazione non ha nulla di paragonabile con quanto pure incassano i big europei dai contratti importanti che hanno siglato di recente. Per esempio il Manchester United ha siglato un contratto con la Chevrolet che gli garantirà 60 milioni all'anno. L'Arsenal ha rinnovato il contratto con Emirates che gli garantirà 37 milioni all'anno. Il Barcellona ha un contratto, una di sponsorizzazione, ha violato la propria maglia con la Qatar Airways, quindi ci sono sempre gli arabi di mezzo, ma otterrà circa 35 milioni all'anno. 150-200 milioni all'anno evidentemente non sono in linea con il fair value, con il mercato, e quindi la UEFA di fatto dovrà sterilizzare quella quota che va oltre questi parametri. E diciamo quindi che, per fare i conti della serva, su 150 milioni almeno 100 non dovrebbero valere ai fini del fair play finanziario. Quindi i catarioti parigini o i parigini catarioti dovranno inventarsi qualche altra cosa per poter partecipare alla prossima Champions. Sì, quindi vediamo se faranno finta di avere l'anello al naso oppure no. Dobbiamo fermarci per una pausa? Io credo di sì, ma poi torniamo perché abbiamo molti altri argomenti da trattare, dalla mela marcia, da Berlusconi che non si intende di frutta, dal fatto che, sai Marco, fare bua un neger non è reato, sono dichiarazioni non mie ma di un pubblico amministratore. Ci fermiamo un attimo. Meglio e il peggio della settimana sportiva, tutto per voi. Senz'altro il peggio sono state, non voglio fare della demagogia, ma soltanto così, un discorso civile. Questo, il fuori onda del sindaco di Corbetta Balzarotti, intervistato da Sky dopo il ben noto caso Boateng, amichevole, Milan che va a casa, eccetera, eccetera. Sentiamo. Ma voglio dire che dice, se uno fa bu a un neger è reato, ma come fai a dire che io lo faccio un neger? Fare bu a un neger non è mica reato, io ti do del terun. Io massimo mi offendo ma non ti denuncio, mettiamola così. No, quindi se vale andare in giro, se vedi uno con una pelle diversa dalla tua gli fai bu. Però se quello ti mette le mani addosso derubrichiamo anche questo, ha legittima difesa. Sarebbe una prova, possiamo dirlo al sindaco, magari magari ci può provare lui e far suscitare il primo caso, prova magari andare in giro a trovare un nigger, come lo chiama lui, e provare a, il suo assessore, a fargli bu e poi vedere, esatto, quello che succede. Esatto. Oppure il suo assessore che si è dimesso, che è tra gli indagati per questa storiaccia qua, si è dimesso dalla carica di assessore ma non dal consiglio comunale. Senti, adesso però vorrei con te parlare di frutta e verdura. Se lei mette una mela marcia dentro lo spogliatoio, può infettare anche tutti gli altri. Balotelli è una persona che io non accetterei mai facesse parte dello spogliatoio del Milan. No, dello scuola di frutta se ne intende poco, pochissimo. Mario è una ciliegina, non è una fiamma nella marcia, anzi, tutto il contrario, una frutta esotica, una ciliegina. Quindi il presidente lì ha sbagliato. Ma c'è anche una dichiarazione del tuo Cavani a proposito di questa vicenda, sentiamo. Nessuno può giudicare l'altro, perché non sa da dove viene, perché non sa magari i suoi principi, perché non sa tante cose dell'altra persona, quindi secondo me nessuno si può permettere di giudicare a un'altra persona, e invece di magari buttare una pietra addosso, magari cercare di aiutare, perché lui è un campione italiano che un giorno regalerà tante gioie, magari, perché è un giocatore di nazionale, un giocatore che veste quella maglia azzurra e che magari un giorno ti farà stare o ti farà. Quindi nel calcio io credo che ai giocatori se gli deve aiutare per farli dare il massimo e per fare, diciamo, diventare, come sempre è stato il calcio italiano, uno dei più belli al mondo. Marco Beninazzo, mi sembra che invece Cavani possa avere un futuro da fruttivendolo, da commerciante di frutta e verdura. Sì, ma peccato che sia uruguagio, altrimenti, come dire, sarebbe un candidato ideale per una lista moderata, no? Io tutta la vita voto Cavani, mi sembra che ci abbia fatto una bellissima figura, al di là magari certi accenti un po' troppo filo religiosi, no? C'è, sì, quasi. E lui ha scritto tra l'altro un libro, Cavani, in cui ha manifestato tutto il suo attaccamento alla religione. Magari negli ultimi anni questo aspetto è venuto un po' meno, è stato meno pubblicizzato, però in questa dichiarazione c'è un afflato sentimentale di attenzione alla persona e all'altro, insomma, che... Ma a me sembra che più che una mela marcia mi sembra un'altra favola, no? Hai presente quale? La volpe e l'uva. Beh, no, non portiamo al mercato anche questo, al mercato dei calciatori, anche questa storia. Mi sembra che sia stata una battuta poco felice su un ragazzo, insomma, che alla fine ha tanti problemi, tante opportunità che mi pare stia sprecando. Io non so se Napoli, ora al di là di tutto, possa essere una piazza, visto che quando è arrivato a Napoli ha fatto visita in città alcuni giorni, Balotelli ne ha combinate anche lì. Insomma, magari Napoli gli va più male che bene, forse in qualche altro posto, sicuramente al City, insomma, credo che ormai si siano un po' scocciati di doverlo sopportare. È comunque un giocatore che ha bisogno di giocare, cioè ha bisogno di giocare, a parte il fatto che sentire dire che Balotelli non è una marcia da uno che ha preso Cassano mi suona bizzarro, però Balotelli secondo me è uno che ha bisogno di essere responsabilizzato di giocare in maniera costante, perché questo dentro e fuori dal campo alla panchina alla tribuna lo manda fuori di testa, e non ci vuole moltissimo per mandarlo fuori di testa. Sì, mettiamo che più minuti passa in campo, meno minuti sta fuori, e quindi meno opportunità ci sono che combini casini, altrimenti insomma appunto sta in campo e quelle doti che ha dimostrato di avere tante volte magari riesce non solo a valorizzarla ancora di più, ma a dargli quella continuità che è indispensabile poi per farlo maturare, visto che stiamo, sì, utilizzando questa terminologia. A parte nemmeno l'abbiamo detto noi, cioè non stiamo inventando niente di nuovo, l'ha detto perfino il tuo allenatore Mazzarri. Non lo conosco direttamente, però da quello che ho parlato una volta, un paio d'anni fa, che lo volevamo prendere, lo incontrai in un albergo di, mi sembra, Sorrento. A me mi ha fatto anche una buona impressione, però sai, chi l'allena sa bene cosa poi, quali eventuali problemi crea. Comunque un po' di esperienza ce l'ho e un talento del genere sarebbe stimolante allenarlo, insomma, da parte mia. Poi non lo so come potrebbe andare certo. A finire, insomma. Quindi lui lo vuole allenare, ma non so se Mazzarri resterà a Napoli l'anno prossimo, no? Non ha detto che doveva prendersi un anno sabbatico, chissà. Si dicono tante cose, chissà. C'è anche Allegri eventualmente disponibile. Beh, almeno, poi gli allenatori italiani vanno di moda, magari Mazzarri al City potrebbe viaggiare, insomma, direttamente con Balotelli, vivere con Balotelli, allenarlo e valorizzarlo in premio, insomma, magari potrebbe essere uno scenario non troppo da fantacalcio questo, chissà. Non facevo a caso il nome di Allegri perché, cioè, in settimana è stato lo stesso proprietario del Milan a dire vediamo. Beh, prima ha detto queste cose. Le è mai venuta la tentazione di cambiare Allegri e se vede ancora Allegri nel futuro del Milan, anche per l'anno prossimo? Il presidente del Milan deve dire sempre la verità. Passiamo alla prossima domanda. Presidente del Milan ed ex presidente del Consiglio. Passiamo alla prossima domanda, poi ha detto dipende dai risultati. Sì, Galliani ha detto anche che Allegri potrebbe essere allontanato dal Milan solo se dovesse perdere le prossime 19 partite, insomma, solo in questo caso mi sembra che il tutto stia profilando un allontanamento poi di Allegri l'anno prossimo. Magari il Milan potrebbe puntare anche in questo caso su un allenatore più giovane e meno costoso per quanto riguarda l'ingaggio. Sì, intanto potrebbe perdere le prossime 19 partite, però in settimana ne ha persa una che era la partita della vita per il Milan, perché io credo che almeno per questa vita, nuova vita da povero ricco del Milan, penso che la partita di Coppa Italia contro la Juventus sia stata per il Milan la partita in cui dovevi decidere un po' il tuo destino stagionale, perché scudetto, dai, Champions League, non scherziamo. La Coppa Italia poteva essere la solita ciambella di salvataggio che è stata in passato per molte squadre. Per tante squadre, ma nel caso specifico io credo che ci sia davvero in casa rossonera l'idea che la scialuppa di salvataggio sia una sola, appunto quella di arrivare almeno al terzo posto. Per quanto sia difficile, però indubbiamente è l'unica via che ti può portare ai soldi della Champions, che danno ossigeno e sono l'unica fonte di guadagno che potrebbe effettivamente permettere magari al Milan di invertire un po' questa austerity, no? Questa rotta verso l'austerity piena, che non credo faccia tanto piacere ai tifosi rossoneri, che sono abituati a ben altri successi, no? Sì, sono abituati a una ben altra gestione della politica societaria, ma poi la vedo dura, insomma, il terzo posto, anche perché le squadre che precedono il Milan sono tante. Adesso da oggi siamo al giro di boa del campionato, però in settimana ho visto la Lazio di quell'allenatore per me sconosciuto ancora, perché confesso che non lo conoscevo prima di ora, ma che si sta dimostrando geniale, che è Petkovic, che ha detto non avete ancora capito come giochiamo, meglio così, siamo secondi e siamo in semifinale di Coppa Italia, speriamo che non lo capiscano mai. Un'altra sarà il caso di andarci piano con l'ironia sulla Lazio, su Lotito, sui lantinismi, eccetera. Beh, Lotito ha fatto un'operazione grandissima, l'ennesima operazione grandissima dal punto di vista economico, finanziario e sportivo, perché ha pescato questo allenatore che guadagna un decimo per esempio di quanto guadagna Mazzarri o di quanto guadagna Allegri, e gli sta dando dei risultati, perché con una squadra che più o meno era quella dell'anno scorso effettivamente è lì, è sempre lì ed è un serio candidato, non tanto magari lo scudetto, ma tu dici? Ad accaparrarsi un posto in Champions, insomma. Gli hanno chiesto se è l'anti-Juve, gli hanno chiesto Lotito, ma siete l'anti-Juve? E lui ha risposto questo. Potete dare fastidio alla Juve per il campionato? Prego? Potete dare fastidio alla Juve? No, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, noi non siamo l'anti-Juve, siamo pro-Lazio noi. Allora io dico molto pro domo sua, no? Visto che piace molto al presidente Lazio parlare in latino, sia una dichiarazione che in qualche modo sposa quelle che sono le politiche societarie, cioè spendere poco, incassare tanto, avere bilanci abbastanza buoni, perché la Lazio ha chiuso l'ultimo bilancio in attivo, sia quello di pochi milioni, anche se stanno crescendo gli ingaggi rispetto al fatturato, e però sono frutto di una politica importante. Sai, si critica molto la Lazio e l'Otito perché avrebbe avuto vantaggi in passato, per esempio dalla mega rateizzazione del debito tributario, cosa vera. D'altro canto, se Lazio fosse fallita, quei soldi lo Stato italiano li avrebbe persi. C'è anche questo rovescio della medaglia. Intanto è una società che ha un suo peso nel panorama italiano sempre più marcato, che non so se sportivamente effettivamente possa competere con la Juve, perché vive su alcuni giocatori come Klose, il cui rendimento è insostituibile. E l'anno scorso ti ricorderai che la corsa della Lazio si è in qualche modo arenata proprio quando Klose si è infortunato. Beh, ma vale, è un discorso che vale anche per il tuo Napoli, cioè voglio dire, se Cavani smette di segnare, se Hamsik smette di produrre, se le stelle non riescono più a brillare, allora diventa più difficile per queste squadre che non hanno un organico, certo, così profondo nella qualità, no? È vero, però come dire, so per dire una cosa ma devo toccare ferro, perché è più facile, come dire, che il rendimento di un 34enne, 35enne cali che quello di un 25enne, 26enne, insomma, poi appunto tocco ferro, non vorrei aver come dire, aperto una falla nella buona sorte, sì, del Napoli. È chiaro che il mercato di gennaio può essere un'occasione, se lo Tito crede nello scudetto potrà tentare qualche altro miracolo, cioè pescare magari da qualche parte, in qualche campionato diciamo non così in vista, dei giocatori che gli permettano di consolidare l'ossatura della prima squadra, che in qualche modo, certo, è certo, assolutamente competitiva, con dei sostituti all'altezza. Penso che la pecca della Lazio sia quella, se ne vogliamo trovare uno. Non c'è dubbio. Ci fermiamo per l'ultima pausa per il traffico e poi, caro Marco Bellinazzo, vorrei parlare con te di Pallone d'Oro o di presunto tale, perché secondo me ormai è diventata una buffonata. Allora, Marco Bellinazzo, tu che sei esperto di economia, adesso mi spieghi quanto vale questo Pallone d'Oro o questa pagliacciata che è il Pallone d'Oro. Mi spieghi se si tratta di prostituzione intellettuale, come disse un giorno Mourinho, o di prostituzione basta, il fatto che sia stato venduto in pratica da France Football alla FIFA. Mi spieghi se fa più ridere il Pallone d'Oro così com'è concepito adesso o lo smoking di Messi, che vincerà anche il prossimo e i prossimi 8, Cristiano Ronaldo permettendo, e magari si presenterà a ritirarlo con il naso rosso da clown. Beh, non so, non credo che Messi arriverà mai a tanto, però credo che ci andrà molte volte a ritirarlo questo premio ancora nei prossimi anni. Diciamo che ha perso un po' forse la sua genuinità, questo premio è diventato effettivamente qualcosa di commerciale, se vuoi era inevitabile per quello che ruota intorno al mondo del calcio. Ha senso ancora l'assegnazione del Pallone d'Oro? Non so, chiaro che... Sì, ma ha senso a un giocatore che ha vinto. È un premio individuale in uno sport di squadra per eccellenza, che già di senso non ne ha moltissimo, può avere fascino, poteva avere fascino, eccetera. Però è assurdo che venga derogato l'unico parametro essenziale, cioè... questo premio va a un giocatore che è stato protagonista in una squadra che ha vinto qualcosa. Ora la Spagna, che vince due europei e un mondiale, non porta a casa nemmeno un Pallone d'Oro, e qualche giocatore ce l'ha. Evidentemente Iniesta era il giocatore che, considerando questo tipo di parametri, doveva vincere quest'anno il Pallone d'Oro. Non è così, perché Iniesta, se vuoi, ha meno appeal pubblicitario di Messi, vogliamo metterla su questo piano, forse volevi portarmi a dire questo. È chiaro che dare il quanto premio contano a Messi... gli sponsor nel Pallone d'Oro, quanto vale per gli sponsor un Pallone d'Oro, Marco? Allora guarda, chiaramente entriamo nell'ordine di quei contratti milionari a cui soltanto certi giocatori possono accedere. Io ora difficilmente, insomma, riesco a farti delle cifre precise, ma parliamo di almeno una decina di milioni di euro di sponsor che possono arrivare in più quando vinci il Pallone d'Oro. con l'eccezione di Messi, se vuoi, e di Cristiano Ronaldo, che non hanno certo bisogno del pallone d'oro per accrescere il proprio appeal dal punto di vista del marketing. È chiaro che se un giocatore, mettiamo come Cavani, visto che si è parlato tanto, oppure come Radamel Falcao, dovesse arrivare a vincerlo, i suoi contratti pubblicitari schizzerebbero all'insù per quella cifra che ti ho detto, ma senza ombra di dubbio. Ed è chiaro allora che avere nel proprio parco di giocatori sponsorizzati un giocatore da pallone d'oro o potenzialmente da pallone d'oro può spingere magari determinati sponsor a fare un po' di pressione. Sì, questo sì. È in qualche modo nel gioco commerciale. Certamente. Intanto c'è una gentile ascoltatrice che in settimana, cioè il giorno dell'assegnazione del pallone d'oro a Messi, il giorno dopo, ha scritto un tweet dicendo: non meritava che glielo consegnassero soltanto per il vestito che indossava. Noi ovviamente abbiamo chiamato uno stilista che è un amico, che si è inventato peraltro un marchio, secondo me, favoloso, Barboni di Lusso, e gli abbiamo chiesto un giudizio su quell'abito. Ciao, che piacere essere ancora con voi. Piacere nostro. Senti, ma Guardiola, l'hai vista quella foto? Maglioncino grigio, maglietta rossa sotto, stile Barbone di Lusso. Molto, molto, molto di lusso. Diciamo che Guardiola è un Barbone di Lusso umano, che ha in questo momento abbastanza tempo per pensare e scegliere dei bei colori, anche se penso e sono quasi sicuro che il grigio associato al rosso sia il preludio di un nero associato al rosso in un breve futuro, poi sì. Non lo so. Vabbè, tu sei avanti, tu sei avanti. Mentre lo smoking di Messi, tu gli avresti dato il pallone d'oro con quel vestito? Guarda, Messi è un barbone di lusso divino. Ah, è un barbone di lusso divino. E quindi, come parlammo, io ricordo bene la prima telefonata in diretta con te, sì, parlavamo di Diego, sì, un altro divino, possiamo dire che Messi, io gli avrei dato quello che aveva addosso, perché quello che decide Messi come divinità, noi non possiamo nemmeno da supremi contestarlo. Va bene Paolo, ti ringrazio, ti aspetto presto. Ci vediamo presto Carlo, grazie a voi. Grazie a Paolo. Ciao. Atti. Questo Paolo Atti, appunto, Barbone di Lusso. Tra l'altro in rete ho visto delle foto d'antan di Maradona, appunto, che indossava uno, sì, smoking simile a quello di Messi. Anni 90, poi era Diego poteva permettersi queste armi. Beh, probabilmente in Argentina quel tipo di moda va... No, ascolta, quando Messi va vince un mondiale con l'Argentina, riparliamo. Può anche mettere... me lo metto anch'io quello smoking. Okay. Va bene, aspetteremo, non so se accadrà presto. Non so se accadrà, questa è la chiave del discorso, che poi facciamo un sacco di chiacchiere a Messi come Maradona. Messi è il più forte giocatore del mondo, che gioca nella squadra più forte del mondo. Maradona ha fatto un'altra vita, un'altra strada, un altro percorso, allora, un'altra carriera. Ti assicuro che sono l'ultima persona al mondo che, insomma, so, hai bisogno, Marco, di convincere, Benignazzo, lo so. Di convincere da questo punto di vista. Lo per so. Quanto c'è da dire che le straordinarie capacità di Messi, che sono state dimostrate in questi anni, ti fanno pensare che, se non a livello di Maradona, gli stia andando molto vicino. Poi ma è chiaro, sì, che quando porterà la sua Argentina, perché l'Argentina in questi anni è molto simile a quella dell'Argentina dell'86, non ha campioni di grande rilievo, allora possiamo... Argentina dell'86 c'era Burruciaga, ottimo giocatore, c'era Valdano, eccellente giocatore, e un branco di indios duri, duri, sporchi, brutti e cattivi. E poi c'era Maradona. E poi c'era Maradona. Ora non è so una se... squadra di serie, di bassa classifica di Serie A con Maradona. È quello che ci permette ancora di parlare di Diego come di uno irraggiungibile, comunque ineguagliabile per quello che è riuscito a fare in Argentina, in Messico, anzi con l'Argentina e a Napoli, naturalmente. Ti faccio sentire una canzoncina. Yolumuzun üstündeki kötü yükleri hep sırtımıza çıkardık. Aldığımız hasarları ziyansız saydık. Zor gibi gelmedi, oyundu bize tabi, demlenmedi ki. Sai cos'è? Beh, naturalmente è una hit che ascolto sempre, no? No, tu magari non l'ascolterai sempre, in Turchia l'ascoltano tutti perché è la numero uno della classifica turca, magari finirà presto nell'iPod di Snyder e chissà di Boateng. Beh, sai, la Turchia economicamente è uno dei paesi emergenti dell'Europa, è uno dei pochi paesi che sta avendo uno sviluppo straordinario. Il fatto che si comincino anche ad attrarre giocatori importanti non solo a fine carriera è la diretta conseguenza. Tra l'altro le squadre, in particolare di Istanbul, hanno milioni di tifosi e un seguito anche di sponsor importanti, insomma, per cui il fatto che Snyder o Boateng o altri giocatori possano essere attratti da ingaggi importanti in Turchia non mi sorprende più di tanto, e anzi potrebbe essere una delle nuove frontiere del calcio europeo. Sì, è una nuova frontiera anche dal punto di vista dell'impiantistica e non solo nel calcio. Ci sono meravigliosi palazzetti, ad esempio Simone Pianigiani, il nostro appunto coach numero uno nel basket, è andato là ad allenare e si è preso un sacco di giocatori. Proprio è un paese che sta fiorendo anche dal punto di vista dell'impiantistica. Esattamente, esattamente. Sono paesi che sono riusciti e stanno riuscendo ad avere un forte sviluppo economico e coniugare questo sviluppo economico anche con l'attenzione, diciamo, alla crescita degli sport professionistici, con il sostegno alle squadre, perché dal calcio o dal basket, evidentemente dalla crescita delle squadre, dalla pallavolo, può venire un ritorno di visibilità e di riconoscibilità del paese non indifferente. Senti, abbiamo ancora 2 minuti, ti voglio fare un'ultima domanda. La prima cosa che hai pensato quando hai letto: ma è impossibile che non te ne sia accorto, domanda. La risposta: impossibile, ho avuto Carobbio, ho avuto Masiello, ho avuto Doni, e voi mi state dicendo io sono proprio un coglione. Antonio Conte, pubblicazione dei verbali di Bari. L'ingenuità, no? C'era l'ascoltatore. Ah sì, già, giusto, mi dimenticavo. Inizio puntata che parlava di ingenuità. Io ho pensato la stessa cosa, sarà perché anche l'ascoltatore era napoletano, insomma. E cosa dire? C'è da credere a quello che ha detto Antonio Conte. Evidentemente queste cose avvenivano, visto che sono state accertate alle sue spalle, e lui non se ne è accorto, insomma. Ha dichiarato quello. E quindi sottoscrivi la sua autodefinizione? Beh, non sottoscrivo nulla. A Bari so che la posizione ora è stata archiviata, sì, nell'ultimo, certo, filone d'inchiesta. Prendo atto, da giornalista prendo atto, non posso sottoscrivere nulla. Benissimo, Marco Verinazzi, io ti ringrazio per avermi grazie fatto compagnia in questa puntata, in questa prima puntata di Tutti i Convocati Magazine. Vi ricordo che da domani la nuova Domenica dello Sport di Radio 24 con il duo Gattuso Ferentino dalle 16.30 alle 19, poi anche dalle 22 alle 23. Il programma si chiamerà Dai e Vai, e io non, sinceramente, sono molto curioso di ascoltarlo. Ringrazio appunto Marco Bellinazzo da Sole 24 Ore, Franco Piantani, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Noi invece ci sentiamo ovviamente, gamma fare, lunedì con tutti i convocati dalle 14.